Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. 2:35 del mattino, è sempre sabato 2 giugno del 2018, continuano ad avvicendarsi gli ospiti festeggiati, spose e sposi e festeggiati di vario genere qui ai nostri microfoni, e adesso chiacchieriamo un po' con una ragazza che dovete sapere ricca di speranza, e adesso ci spiegherà lei il motivo, o meglio poi ve lo... vabbè, non si può vedere, però lo potremo percepire in qualche modo. Diamo il benvenuto a Elena, benvenuta. Ciao a tutti. Ciao Elena, allora da dove vieni? Da Bergamo. Bergamo città? Bergamo provincia. Bergamo provincia, tipo? Stezzano. Ah, Stezzano, sei quella di... ah sì, giusto. Benvenuta in età, della fiera, la fiera. Sì sì, che io frequento spesso per la fiera del disco, molto molto bella. Centro commerciale Le Due Torri, facciamo pubblicità, magari mi regalano un vinile, io ci provo. Esatto, insomma, io il messaggio lo mando, se qualcuno ne approfitto, se qualcuno lo sente, ben venga. Allora, io la domanda purtroppo te la devo fare, sei così sempre o sei così per questa occasione? No, sono così sempre. Sempre? No, è purtroppo, è una tua scelta, è una tua scelta. Meno male che almeno ti distingui dalla massa, perché dovete sapere che la Elena ha una capigliatura verde, verde, cioè verde. Oh, la luce qua mi sembrava verde. È turchese. Ah, turchese, allora mi perdonerete, non è più piena di speranza, perché l'avevo associata a voglia di mare, quindi è una sognatrice di mare. E come mai questa scelta così colorata, così particolare, indipendentemente dal lavoro che fai? Mi rappresenta. Come mai ti rappresenta? Perché sono solo pazza, non ho... Ah, vabbè, ci sta. Non ho un filo conduttore. Non hai un filo conduttore, mi piace questa definizione, la vorrei anch'io per descrivermi. Non ho... No, è veramente bella, non ho un filo conduttore. E da quanti anni hai questa capigliatura così variopinta? Ormai sono 3-4 anni. 3-4 anni, ogni quante volte la ripassi? Di più. Ogni Dice. Mese. Ogni mese la ripassi? Per forza. Ma hai cambiato anche colorazione o più o meno è rimasta quella? Sì, siamo rimasti dal grigio al fucsia, all'azzurro. Insomma, è arcobaleno, hai fatto, sì, hai fatto tutto, hai fatto passare tutte le tonalità. Questo però ha a che vedere anche con la tua professione ufficiale e quotidiana, che è, dici un po'? Ma per passione faccio la parrucchiera. Ah, scusa, non è il tuo lavoro quindi? Sì, no. Ah, no, ok, no, pensavo che... è la mia passione. Vabbè, sicuramente, però comunque è la tua occupazione, non è che sì. Nel tempo libero la sera tagli i capelli alle amiche, no. No, ormai. Oh yeah. Ah, ok. Bergamo okay. Nel cuore, certo, bravissimo. Grande. No, e poi ci mandano messaggi da fuori che noi dobbiamo cogliere anche i vari input che arrivano. E fai la parrucchiera, hai uno studio tuo, sei dipendente? Sì. Venite a trovarmi in via dell'Era a Bergamo. Vai. Come si chiama? She Source. Ah, come forbici in inglese. Bravissimo. Bello, bello, grazie, mi piace. È il primo che ci arriva. Madonna, non è così difficile. Sì. A quanto pare sì. Vabbè, ok, bene, mi prendo questo merito. Pensavo fosse abbastanza facile. C'era anche un gruppo, non dico famoso, però che ha fatto il suo che è le She So Sister. Bravissimo. Che hanno fatto 2 o 3 canzoni importanti. Poi però se ne sono andati dimenticandosi nell'oblio dei esatto, non si è più sentito niente. Bene, l'idea del nome è stata tua? No, beh, sono in società. Ah, ok, società. E come mai questa scelta così esterofila, così criptica? Perché fondamentalmente la forbice rappresenta molto il mio lavoro. Sì? Ok. Sì, però di solito è... Nel parrucchiere italiano. Sì, adesso non voglio banalizzare, però di solito è da Elena, parrucchiera Elena. No. Ma dico, come mai questa scelta così... Perché nella società era un po' difficile dare il nome. Ah, beh, però potevate tipo, non lo so, come ti chiami? Vicino amica? Elisabetta. Ecco, Elisabetta. Potevate fare da Eli. Sì, però no, era un esempio. Se fossi in società con lei, potevate fare da Eli e Ele, capito? No, ho avuto un'ispirazione anglosassone, secondo me. No, ma è bellissimo come nome, volevo capire. Effettivamente noi prendiamo ispirazione tanto dagli anglosassoni. Sì. Di tu ci guardano da fuori che sono. Vabbè, ci sta avere ispirazione da qualcun altro, ci mancherebbe altro. Di solito la moda viene lanciata prima in America, poi a Londra e poi arriva da noi, assolutamente sì. Poi Milano e... Allora indaghiamo un po' su questa cosa. Secondo te, visto che le forbici, dicevi, sono il simbolo probabilmente anche della tua vita, anche un po', non solo del tuo lavoro, secondo te essere parrucchiera è più talento o più rigore, chiamiamolo? Cioè, talento inteso come istinto, ecco, più che talento. Istinto o rigore? Istinto. Istinto? Ma secondo me tutte le cose insieme. Sì? Sì. tu sei, ti senti più una del tipo fai tu o voglio quel taglio lì? Cioè cosa preferisci tu come parrucchiera? No, cerca di andare incontro a entrambe le cose, tra sì, quello che voglio e domani quello mi viene che mi piacerebbe fargli. Quindi ti capita anche di prendere un po' l'iniziativa, diciamo così, sì, comunque di importi un po'? Sì, sono i clienti per forza. Uomini e donne? Uomini o solo donne? Donne? Uomini e donne, percentualmente chi ti viene donne a trovare? Dammi una cifra. 90% di... Ah, beh, avrò 90-10. Ok. Che taglio faresti? Beh, facile, dai. No, beh sì, anche, tutto. Ci sta. E no, c'è una cosa che mi interessava sapere, è nel 2018, tempo di internet, informazioni che si hanno ovunque, il parrucchiere rimane ancora il centro del chiacchiericcio mondiale o è un po', se non un po' andata anche questa nomea? No, sempre il centro del chiacchiericcio mondiale, perché siamo in diretta anche il wedding. Ah, ve lo siete seguiti? Il wedding da televisione. Commentavate le acconciature, i vestiti. Quindi sei anche un po' psicologa. La parcella dovrebbe aumentare in questi casi. Problemi di coppia, problemi personali, problemi di identità. Figli, soprattutto dei mariti si parla. Sì, vabbè, immagino. A mio marito non piaccio, non mi capisce, mi vuole diverso. Fammi bionda perché mio marito non piace. Ah, suocere. Non è vero. Allora, facciamo così, classifica dei tre argomenti più quotati dal parrucchiere. Malattia, cucina. Non è vero. Malattia, cucina, sesso a tutto spiano. Dai, sesso. Sesso? Uomini, abbigliamento. E ovviamente vabbè, capelli. Sesso, uomini, abbigliamento. Quindi diciamo che il, come dire, la tradizione non cambia da quel punto di vista. Si parlerà sempre e si parlerà sempre di quelle cose, come è giusto che sia. Io Elena un po' ne ho intravisti, ma anche a occhi chiusi ci avrei scommesso. Tu hai dei tatuaggi, immagino. Un attimo. No, ma guarda, ne ho intravisti proprio, ma comunque te l'avrei chiesto a scatola chiusa, che con una conciatura del genere sicuro che avevi dei tatuaggi. Sono importanti o... Sì, sono tutte... Quanti ne hai? Sette. Sette? Sì. Vuoi velocemente raccontarci cosa significano? E cosa sono, chiaramente? Allora, l'ultimo new entry è il nome della mia seconda figlia. Ah, quindi hai già dei piccoletti. Il nome della mia prima figlia. L'ultimo che ho fatto è inerente al matrimonio imminente e poi a susseguirsi una serie di frasi inerenti alla vita. Citazioni prese da libri, film, no, musica? Da Vasco. Ah, musica, Vasco. Solo Vasco. E non sei al concerto stasera? No. Vuoi cantare? No. Ah, non vuoi cantare, niente. Volete i capelli bianchi tutti se canto io? No, beh, ci mancherebbe. Sei andata a vederlo, ti è capitato? Certo, Modena Park. Ah, sei andata al famoso Modena Park. Dicono che sia stata una delle... Fantastico. Degli eventi, neanche un concerto, proprio degli eventi musicali più riusciti in Italia. Vabbè, ci sta, bene. Allora, grazie, bello questa tua passione anche per Vasco. E abbiamo detto, quando ti sposi con chi, questo no? Il 18 giugno con il signor Monzio Fabio. Addirittura, gli dai del lei anche in casa, il signor Monzio, Fabio? Sì, no, perché è il signor casa, Monzio certo. Compagnoni Fabio. Ah, ok, bene. Mi piace questo rispetto e riverenza che hai nei suoi confronti. Allora, velocemente, vuoi presentarmi anche le tue amiche o ma non certo, so come chi ti accompagna? Come mia cugina, okay. Elisabetta. Eccomi. Che è la seconda parrucchiera del gruppo. Certo. La mia amica Danila. Yeah! La mia amica Laura. Yeah. E Fabrizio Corona che ci sta riprendendo e da 9 minuti. E mia cognata Alessandra. Ah, ecco perché è per quello che ti sta riprendendo, perché non può non avere prove di tutto. No, no. Deve avere prove di tutto. Bene. Ragazze, volete dire qualcosa voi? No, non vi interessa dire. Volete dire qualcosa? Bellissimo locale, ci siamo divertite. Beh, anche su Elena se volete. Volete fare... una grande pazza ci vuole. Brava, mi piace così. Benissimo. Vabbè, le vogliamo tanto bene. No, beh, non capivo il fa cosa volesse dire. Vabbè, sono cose vostre e non voglio entrare in cose vostre. Va bene, allora io vi ringrazio per la bella chiacchierata, per averci anche un po' fatto conoscere il mondo della parrucchiera. E vabbè, venite a trovarmi, Bergamo, via dell'Era numero 4, ci sono. Vai, non è tu, è giusto che lo ricordi. Oh, questo è un anno e mezzo coperto. È fatto ragazzi, apposta. Anche perché dovete sapere, è banale dirlo, ma è giusto farlo, che Elena in qualche modo le spese del matrimonio le deve pagare. Esatto. Cioè, non è che glielo regalano. Dolente. Non è che glielo regalano. Facciamo tutto. giusto, eh? Sì, cioè nel senso le amiche si impegnano come giusto che sia nella busta, però insomma diciamo che se vi fate tagliare un po' più del dovuto rispetto al solito e la aiutate anche a sostenere le spese, sembra la 30 ore per la vita quasi, la marcia da Teleton. Esatto, sembrava Teleton. No, beh, adesso a parte gli scherzi, però andatela a trovare perché è una tipa interessante, un po' fuori dal comune, e chiaramente è un complimento. E quindi se siete un po' anche voi, un po' pazzerelli, andatela a trovare che vi saprà sicuramente soddisfare, anche l'Elisabetta, esatto. Non facciamo torti a nessuno. E va bene allora ragazze, di nuovo buon divertimento e buona serata. Ciao, e grazie, alla prossima. Ciao.